Ma intanto vorrei fare dei ringraziamenti non formali e non di rito, perché non so, ci tengo a sottolineare due ingredienti di questo incontro che mi sembrano particolarmente importanti e suggestivi. Uno, l'idea stessa del confronto di metodo che non mi sembra molto di moda di questi tempi, almeno nelle nostre discipline, e dall'altra invece, e qui mi dilungherò un momentino di più, al fatto che un incontro tra storici possa essere dedicato a delle fonti. Io credo che questo sia oggi un elemento di un'importanza strategica, e lo dico in relazione non tanto alla visita pastorale in sé, quanto alla fase storico-culturale o storiografica che attraversiamo, cioè una fase che è contrassegnata da scetticismo, che prende vari nomi dal decostruzionismo alla svolta linguistica, a cui gli storici di solito rispondono con delle ventate neopositivistiche che sono altrettanto sbagliate dello scetticismo, e comunque limitative, riduttive, e ritengo per questo che dedicare un incontro a delle fonti implica oggi una ricerca di una consapevolezza che mi sembra, torno a dire, strategica e essenziale. Vorrei fare soltanto un esempio. E cioè che mi sembra, faccio un mea culpa in quanto modernista, mi sembra che i medievisti da questo punto di vista abbiano moltissimo da insegnarci, nel senso che l'analisi della struttura delle fonti, che è stata portata avanti soprattutto in ambiente tedesco, ma in Italia direi, non lo so, ne parlo da dilettante, ma egregiamente da Cammarosano, ha fatto vedere come gli storici si possono accostare alle fonti in termini non puramente filologici, ma in termini che si interrogano sui processi di legittimazione dell'autorità. Tengo a ribadire che parlo di processi di legittimazione dell'autorità. Lo butto qui, cioè magari noi riusciremo a parlarne più tardi, e preferisco invece soffermarmi un attimo sul legame tra questo tipo di analisi e una fonte come le visite pastorali. Riguarda, diciamo, proprio da vicino la frase di Prosperi, che così era, diciamo, l'elemento più importante della sua introduzione al libro di Baratti, e che Prodi ha appena ricordato, cioè che le visite pastorali, esaminate da Baratti, ma direi in generale, davano un doppio registro, discorsivo e di descrizione, e cioè, riferiscono uno sguardo di un vescovo, e dall'altra parte però, direi dietro una realtà. Allora, io mi chiedo, ma questo è una vera domanda, mi chiedo quanto abbia di scetticismo un approccio che riduca la visita pastorale al puro sguardo del visitatore. Lo sforzo di Baratti era proprio stato quello di andare in là, anche se con strumenti diversi da quelli che poi ho utilizzato io. Prego, professor Prodi, di fermarmi quando ritiene, cioè nel senso che io ho un intervento abbastanza No, no, caotico. no. No, no, no, no, è una tavola rotonda e non è. No, no, non è una. Andiamo proprio No, no. con libertà, insomma. Vorrei invece soffermarmi su tre aspetti diciamo, del problema, del rapporto tra fonte e legittimazione che sta dentro la visita pastorale. I tre aspetti a cui mi piacerebbe dedicare qualche parola sono, da un lato, l'analisi culturale, dall'altro l'analisi delle istituzioni rituali, e il terzo è quello del problema della trasformazione culturale o delle credenze, se volete. Primo punto, l'analisi culturale. Allora, a me pare che la visita pastorale consenta di vedere la cultura, tra virgolette, in termini pragmatici. È un documento, da questo punto di vista, limpido. Mi rendo conto di fare un'affermazione eretica, ma io considero la visita pastorale uno strumento limpido. Nel senso che è sufficiente riconoscere il suo carattere intrinsecamente dialogico. Dentro la visita pastorale, come se vogliamo, all'interno di qualunque descrizione, c'è un'interazione. L'interazione è l'interazione tra, non i laici, ma qualche laico, qualche membro del clero e una autorità che descrive e che seleziona, discrimina quello che... Vorrei fare un esempio brevissimo, ma mi sento più a mio agio in all'interno di un aneddoto, diciamo. Mi riferisco a una visita astigiana del 1626, che appunto ho studiato nel corso del lavoro che il professor Prodi ha richiamato, facendomi arrossire non poco, ed è relativa a un villaggio astigiano che si chiama Castagnito. Nel villaggio di Castagnito, Monsignor Broglia, nel 1626, trova non soltanto un problema su cui tornerò più tardi, le due parrocchie che si competono e si contendono aspetti della giurisdizione, ma trova soprattutto un arciprete, diciamo, iperattivo, che ha deciso di fondare un beneficio nella prima e più antica e abbandonata chiesa parrocchiale, suscitando evidentemente, ma non viene detto, l'ostilità o comunque le reazioni dei suoi fedeli, i quali nel corso della visita stessa di Broglia, ma in un'altra parrocchia, inseguono il visitatore e gli comunicano la propria... Non sono dei laici qualsiasi, ma sono il consiglio comunale, il consiglio della comunità, gli comunicano la propria intenzione di, e qui cito le parole che loro hanno usato, di votarsi a una serie di santi. E fanno l'elenco dettagliato dei santi a cui si votano, tra i quali compare il santo a cui è dedicata l'antica parrocchia del luogo, che è esattamente quella in cui l'arciprete Tardito parrebbe avere l'intenzione di fondare un beneficio semplice. Questo modo di raccontare, sbiadito se vogliamo, restituisce però proprio l'intensità di un dialogo. No? E le visite pastorali, almeno le serie piemontesi che io ho utilizzato, sono colme di riferimenti di questo genere. Cosa vuol dire questo scambio? Anche a una relativa distanza di tempo. Vuol dire, e io devo confessare nella mia ignoranza, ho impiegato un po' di tempo a capirlo, vuol dire che il Consiglio Comunale di Castagnito decide di porre sotto la propria egida l'antica parrocchiale del luogo, cioè esattamente quella a cui l'arciprete stava dedicando delle attenzioni, tra virgolette, privatistiche, insomma. Lo fa ovviamente usando un linguaggio simbolico, cioè annettendo il santo titolare nelle proprie preoccupazioni devote. Allora, a me non interessa tanto. Ci sono poi dei particolari gustosi, se vogliamo. In una visita successiva lo stesso visitatore, Monsignor Broglia, nota che l'arciprete si è fatto ritrarre ad un altare laterale in abito oratoriano, e allora un po' spaventato dice esplicitamente che l'arciprete venga venerato, la Svedia nel frattempo è morta, non pensiamo a cosa. Dice, beh, intitoliamo l'altare a San Filippo Neri e così risolviamo il problema. Ma a parte questo aspetto così colorito, diciamo, a me interessa far vedere questo elemento di dialogo, questa dialogicità, per usare un termine, credo, di Bakhtin, insomma, permea la visita pastorale. Questo ci permette di leggerla in termini intrinsecamente dinamici. Questo dialogo è un dialogo legittimante, cioè è questo dialogo che genera il documento, nella forma in cui noi lo leggiamo. Cioè trascrive, per usare i termini che ha usato Alain Cotreau 10 anni fa su Mouvement Social, trascrive azioni che vogliono istituire dei precedenti. Appunto, nominare un santo, istituire un beneficio. La visita registra e restituisce legittimato. O non legittimato. Allora, mi pare che porre le cose in questi termini consente di spostare l'attenzione verso il consumo di una serie di simboli. E il consumo di una serie di simboli mi sembra che ci restituisca un processo, possiamo chiamarlo sociale, culturale, politico, quello che vogliamo, ma certamente un processo. Allora, questa era la prima osservazione che volevo fare sull'analisi culturale, e adesso proseguo col secondo punto, e cioè che quello che riguarda le istituzioni rituali. Direi che da questo punto, letta in questo asse, lungo questo asse, in questa prospettiva, gli atti di visita pastorale restituiscono, no, un'immagine delle istituzioni profondamente trasformata rispetto a quella a cui siamo, diciamo, abituati, o a cui ci ha abituati la letteratura, mi riferisco alla letteratura modernistica, ma vorrei fare quattro esempi. Il primo riguarda, per esempio, il problema del dualismo parrocchiale. Io non so se i casi piemontesi, questo mi sembra che siamo tutti d'accordo sulla necessità di analisi non soltanto microcomparative ma anche macrocomparative, non so se l'esempio piemontese sia abnorme, ma certamente uno degli aspetti della vita religiosa del secondo Cinquecento nelle campagne è la presenza di un'incertezza sul luogo in cui si trova la parrocchia e sul suo titolo e sulla destinazione, diciamo, dei suoi cespiti, delle sue reti. Questo è un carattere che è stato appunto interpretato soprattutto in termini di storia dell'insediamento, è giusto interpretarlo in termini di storia dell'insediamento, ma non è solo storia dell'insediamento, è storia di un processo politico, che è il processo politico della formazione dei villaggi. Ne parlo tra un minuto e mezzo. Il secondo aspetto che le visite pastorali, lette in questa prospettiva dinamica, fanno emergere è la segmentazione territoriale. Segmentazione, cioè frammentazione in unità di spazio che sono inferiori a quelle dell'unità amministrativa, più piccole, voglio dire, scusate, e che ci propongono delle istituzioni che non si identificano con la comunità. Nel caso piemontese questo è particolarmente chiaro, si tratta di un tipo di associazione che non è un'associazione, che si chiama la confraria dello Spirito Santo, che non è una confraternita, nel caso piemontese, e che è invece una organizzazione che potremmo chiamare di redistribuzione, comunque che organizza un pranzo rituale o dei pranzi rituali, e e che, a una mia, a un'analisi più attenta, nonostante la povertà delle informazioni che le visite, che la singolo atto di visita fornisce, rappresentano in realtà dei fuochi di identità locale, di frazione, di casolare, di cascina, mi pare, nelle aree pianeggianti, e che comunque esprimono la frammentazione territoriale. Il terzo aspetto è quello della pluralità dei luoghi di culto. Questo è un elemento che per tutta l'epoca moderna caratterizza la vita devozionale e che impone, a mio parere, una lettura topografica della visita pastorale. E soltanto leggendola, opinione personale naturalmente, percorso di ricerca se volete, una lettura topografica, e intendo per topografica una lettura che associ l'ubicazione di un'unità rituale che mi pare nella visita si possa identificare con l'altare, sia che questo si trovi nell'edificio parrocchiale, che nella confraternita, che nella cappella campestre e via dicendo. Questa lettura topografica consente, a mio giudizio, di leggere anche le devozioni, e non sono il primo ad averlo tentato, Madame Chopin mi sembra che l'abbia fatto con una griglia interpretativa diversa dalla mia, ma certamente, nel senso che io non ho usato devozioni nuove e devozioni antiche come interrogazione principale, ma che comunque dà delle risposte molto, molto importanti, insomma. Faccio un solo esempio, l'uso dei santi taumaturgi dentro e fuori il borgo abitato, dislocati nella periferia dei villaggi o no, ci dice qualcosa sulla struttura politica dell'unità amministrativa. Ecco, letto in questi termini, mi sembra che gli atti di visita pastorale pongano un interrogativo storiografico enorme, e cioè quello della necessità di rivedere la nostra immagine della comunità contadina. Il rapporto tra comunità contadina e insediamenti è un rapporto critico, non è un'equazione data. Quando noi ci troviamo di fronte a una comunità, a qualcosa che viene definito una comunità, noi ci troviamo di fronte a una unità, tra virgolette, frammentata nello spazio, oltre che socialmente, ma questa è una eredità della storia economica e sociale di questo secolo. Mi sembra, allora, da questo punto di vista, non mi sento particolarmente solo. Mi sembra che, a parte il libro di Grandi su Cervo, che è tutto fondato sulla dialettica, sul incontro-scontro, diciamo sulla tensione intrinseca del rapporto tra unità periferiche e borgo centrale, mi sembra che il recente libro di Chris Wickham ci faccia vedere, sulla Lucchesia del XII secolo, XII-XIII secolo, ci faccia vedere che questo processo è all'opera in molteplici situazioni locali. E l'ipotesi del libro di Wickham, mi riferisco a comunità e clientele nella Toscana del XII-XIII secolo, l'ipotesi di Wickham sulla origine della parrocchia come territorializzazione del diritto di sepoltura sia un'ipotesi storiografica di enorme suggestione, non sufficientemente esplorata negli ultimi 40-50 anni. Posso dire ancora una... Ho ancora la possibilità di 2 minuti e mezzo? Certo. Cioè. Sono 17 minuti. L'ultimo aspetto è il problema della trasformazione culturale. È chiaro che descritto la realtà che emerge dalla visita pastorale, descritta in questi termini, in realtà descrive un processo politico, sociale, culturale di grande rilievo, che è l'apparrocchiamento. Molte istituzioni locali si possono leggere alla luce di questo processo. Credo che istituzioni come le confraternite dei disciplinanti, le scuole del Corpus Domini del Santissimo Sacramento, le compagnie del Rosario e la stessa istituzione del curato possa essere vista all'interno di questo unico grande processo, unico nel senso che è enorme, processo di apparrocchiamento. Vale a dire delle risposte che una cultura, una società e delle autorità giurisdizionali danno al problema della segmentazione e della frammentazione territoriale. Da questo punto di vista, per esempio, analisi molto circostanziate, è chiaro che qui bisogna entrare nell'ambito della singola parrocchia, delle confraternite di disciplinanti fanno vedere che le confraternite di disciplinanti possono costituire e rappresentare dei segmenti di comunità, cioè dei particolari ambiti territoriali, e non soltanto come noi abbiamo pensato sulla scorta di indicazioni sociologiche un gruppo sociale o una piramide sociale. Il problema è che le confraternite possono rappresentare dei segmenti. Da questo punto di vista è molto interessante pensare che l'uso di un linguaggio universalistico da parte delle confraternite, riportato dalle visite pastorali attraverso i loro atti rituali, sia una risposta alla frammentazione, cioè un invito all'unità attraverso degli strumenti rituali. Il caso della Compagnia del Corpus Domini, letto in questi termini, non è lontanissimo, nel senso che è, almeno dall'analisi delle pratiche che le compagnie del Corpus Domini attestano, rivelano al visitatore tra 5 e 700, il problema essenziale è quello della comunione dei malati, che vabbè crea tutta una serie di oggetti che sono ancora a disposizione per la nostra analisi, ma che di nuovo tende a rispondere al problema della frammentazione, cioè si tratta di capire chi effettivamente porta la comunione ai malati, se è per esempio il curato, se sono i confratelli, se è un chierico, e esiste una gamma di procedure per risolvere questo problema molto articolata e che è suscettibile di una analisi da parte nostra. Analogamente la Compagnia del Rosario, di nuovo la sollecitazione dell'elemento femminile della comunità sotto il diretto controllo del Consiglio Municipale è di nuovo un elemento che può rispondere, in termini devozionali, questo è evidente, a un problema di frammentazione. E lo stesso dicasi del dualismo che le visite pastorali piemontesi fanno emergere fra curato e vice curato, almeno nella prima metà del XVII secolo. Chiudo qui con una considerazione moralistica, e cioè che forse dobbiamo accettare, no, che l'idea che il mondo rurale, in cui le visite pastorali, io non mi occupo di città, ma per non complicare troppo il quadro, che il mondo rurale fosse un mondo pieno, cioè pieno di istituzioni, di significati, di simboli, di strutture giurisdizionali e politiche. Vedere e leggere una proposta devozionale all'interno di questo mondo pieno è una scommessa che mi sembra, a cui non, mi sembra non possiamo più sottrarci. Grazie.